Storiacce di Raffaella Calandra. Conosce, ha mai sentito parlare nell'ambiente che ha frequentato di Cosa Nostra, associazione criminale Cosa Nostra? Guardasse che io, sono avvocato, non ho frequentato nessuna criminale Cosa Nostra e quindi non conosco. La domanda è se riconosce l'esistenza. Se ne ha sentito parlare. No, non ho sentito parlare. Non ha mai sentito parlare di Cosa Nostra? No. Non conosce questa organizzazione? No. Quasi fino alla fine ne ha negato proprio l'esistenza, ma di Cosa Nostra lui, Totò Riina, è stato fino alla fine formalmente l'indiscusso capo dei capi, anche dopo la cattura il 15 gennaio 93, dopo 24 anni di latitanza e ancora più misteri, dopo una guerra allo Stato, le stragi di Viale Lazio del 92 e del 93 e i papelli della trattativa. È morto a 87 anni nell'ospedale di Parma con 26 ergastoli, senza aver mai lasciato aperto uno spiraglio a qualche forma di collaborazione e senza aver mai svelato segreti di una delle peggiori stagioni per la Repubblica Italiana, che nelle sue ultime ore di vita ha comunque autorizzato i familiari a raggiungerlo. Con lui si è chiusa di sicuro anche simbolicamente quella stagione di stragi. Se n'è andato Totò Ucurtu con molte verità però ancora coperte e su cui ancora si indaga a Palermo, Caltanissetta come a Firenze, mentre all'interno di Cosa Nostra si cercano i nuovi equilibri e questa potrebbe essere una fase molto delicata. E da qui allora parte questa puntata di Storiacce dentro la mafia di ieri e di oggi. L'organizzazione si è mossa per prendere le decisioni necessarie. O una gestione collegiale dei vertici o un tentativo di qualcuno di forzare la mano. Nell'un caso avremo una stagione di politica silente di Cosa Nostra, di sommersione come è stata quella inaugurata da Provenzano, o purtroppo uno scontro che non è mai da augurarsi. Nostra si riorganizza dopo la morte del suo capo indiscusso e ora comincia una fase delicata, come vedremo più avanti. Ma la morte del suo più sanguinario boss lascia tuttora senza risposte molti interrogativi intorno a quella stagione di lutti e bombe, intorno ai misteri della sua cattura e della mancata sorveglianza e perquisizione del covo, ma ancor di più rispetto ai rapporti esterni a Cosa Nostra, su cui ancora si indaga. Ma per capire tutto questo non si può non partire dalla storia di Salvatore Riina, che impose la mafia dei Corleonesi in quegli anni in cui Palermo era come Beirut, per dirla con un celebre titolo del quotidiano L'Ora. E dopo le stragi di Capaci e Via D'Amelio, quando decise di colpire al cuore lo Stato, alla guida della Procura di Palermo arrivò Giancarlo Caselli, che riparte oggi dal giorno della cattura di Riina. Sembrava che tutto stesse per crollare sotto i colpi della mafia spietata di Riina, che aveva ucciso con le stragi di Capaci e di Via D'Amelio il cuore dello Stato italiano. Invece siamo riusciti a resistere, a fare argine, tutti insieme. E questo percorso di resistenza comincia con l'arresto di Riina. È una sorta di riscatto, l'inizio di un lungo riscatto del nostro paese. La dimostrazione che abbiamo tanti problemi di mafia ancora oggi, ma sappiamo essere anche il paese dell'antimafia. Questo ha rappresentato l'arresto di Riina, cui seguiranno tantissimi altri importanti arresti, da Brusca a Bagarella, ad Aglieri, a Spatuzza, a Graviano e via seguendo. La morte di Riina oggi, indubbiamente per quanto riguarda, diciamo, gli equilibri dell'organizzazione criminale di nome Cosa Nostra, non è un fatto qualunque. Però io vorrei soprattutto ricordare che oltre questo o quel capo, prima di tutto, soprattutto, c'è l'organizzazione, che si avvale anche delle cosiddette relazioni esterne, cioè di coperture, complicità, collusioni con pezzi della politica, dell'economia, delle istituzioni. Oggi la mafia c'è ancora, ma quotidianamente forze dell'ordine e magistratura si danno dentro e ottengono risultati importanti. Sono dei misteri, è certo. No? Io preferirei parlare prima di tutto delle cose che sono state risolte, delle cose positive che sono avvenute a partire dall'arresto di Riina. Ma intorno a quella stagione resta una verità a brandelli, secondo Roberto Scarpinato, attuale procuratore generale di Palermo, già per anni a cominciare proprio dagli anni delle stragi nella frontiera del Palazzo di Giustizia più blindato d'Italia. E questi brandelli indicano i pezzi mancanti, soprattutto per ricostruire quella aggregazione di tipo orizzontale che si muoveva dietro le stragi, come già diceva in un'informativa del 1993 la Direzione Investigativa Antimafia. Un'aggregazione cioè in cui ci sono le dinamiche del terrorismo, i meccanismi della comunicazione di massa, nonché, si legge, una capacità di sondare gli ambienti della politica e di interpretarne i segnali. Beh, è stato svolto un grande lavoro dalla magistratura, sono stati condannati tutti i componenti della Procura di Cosa Nostra, gli esecutori materiali, ma restano ancora alcuni aspetti importanti da chiarire. Per esempio, non è stato individuato il soggetto esterno a Cosa Nostra che, come ha rivelato il collaboratore di giustizia Gaspare Spatuzza, ha partecipato all'operazione di caricamento dell'esplosivo nella macchina che fu utilizzata per fare saltare in aria Paolo Borsellino e la sua scorta. Per esempio, non è stata ritrovata mai l'agenda rossa di Paolo Borsellino, dove lui annotò quello che intendeva riferire ai magistrati di Caltanissetta, e non è stato individuato l'artificiere della strage di Via D'Amelio. Vi sono molti altri profili che restano tessere mancanti ed è importanti di una storia sulla quale non a caso ancora la magistratura sta continuando a indagare. E infatti, sulla partecipazione di soggetti esterni a Cosa Nostra i cui interessi erano convergenti con quella dell'organizzazione per realizzazione di stragi che dovevano contemporaneamente raggiungere degli obiettivi per la mafia, ma nello stesso tempo raggiungere obiettivi di destabilizzazione politica in quella fase storica. Una convergenza di interessi criminali, questo diciamo forse uno dei principali tasselli che tuttora manca, ma che d'altra parte però la cui risposta non poteva arrivare da Riina perché non ha mai dato alcun tipo di segnale di collaborazione. Certo, noi a Palermo abbiamo fatto un'indagine che si chiamava Sistemi Criminali, dove abbiamo ricostruito uno scenario globale all'interno del quale sono state consumate le stragi del 92 e del 93. E Riina non è stato soltanto il protagonista delle vicende criminali che conosciamo, omicidi e stragi, è stato anche il coprotagonista di quello che non a caso Giovanni Falcone chiamava il gioco grande del potere, e cioè una parte della storia del potere che è stata giocata nel fuoriscena, che non è raccontabile perché personaggi come Riina si portano nella tomba i loro segreti, perché i documenti vengono distrutti o fatti sparire, come i documenti che si trovano nella villa di Salvatore Riina, che sono scomparsi, misteriosamente non sappiamo chi li ha, perché coloro che sanno vengono uccisi poco prima di cominciare a collaborare con la giustizia, come è successo con Giovanni Lardo, il quale era a conoscenza di segreti delle stragi, è stato il primo a indicare alla magistratura chi era stato l'artificiere della strage di Capaci, Rampulla, e grazie a lui è stato individuato, è stato ucciso pochi giorni prima che rivelasse, come aveva anticipato, quei segreti scottanti alla magistratura. C'è una parte della storia che resta nel fuoriscena e che non soltanto si riesce a ricostruire nei processi, ma che resta, come dire, la parte oscura della storia. E infatti, diciamo, anche se ci sono ancora, cioè a Palermo il processo sulla trattativa Stato-mafia, si indaga a Caltanissetta e c'è un nuovo fascicolo aperto anche a Firenze sulle stragi del continente con nuove iscrizioni anche di Berlusconi e dell'Utri che erano stati già all'epoca anche iscritti e poi archiviati. Ecco, però restano ancora dei grandissimi interrogativi su queste che lei appunto ha definito verità parallele. L'ultima cosa che le chiedo, procuratore, ecco, un ricordo. Ricordo un tuffo nel passato, nel senso che lei era appunto in procura anche prima delle stragi di Capaci e di Via D'Amelio. Voi avevate, voi magistrati, in qualche modo la sensazione, il rischio anche di non riuscire a tener testa a questo attacco dello Stato? Si ricorderà che lo stesso Antonino Capoldetto, dopo la strage di Via D'Amelio, intervistato di mezzo al palazzo giustizia, il giornalista si lasciò scappare, è tutto finito. Cioè, certo, quello sembrava veramente un momento in cui tutto era finito, ma quel momento è stato secondo me importantissima la partecipazione popolare, perché la Palermo che era rimasta sino allora a guardare è scesa in piazza, un popolo si è raccolto intorno al Palazzo di Giustizia, ha riempito le piazze, le strade e ha chiesto a viva voce che si facesse veramente giustizia. E quella partecipazione popolare così forte, almeno per quanto mi riguarda, posso parlare per me, è stata veramente una trasfusione di energie. Ci è sembrato che per questa gente, oltre che per essere uomini dello Stato, noi dovevamo assolutamente, costasse quel che vi sta, costasse, andare avanti e fare quello che Giovanni Falcone e Paolo Borsellino non avevano potuto fare. E tutto questo è un capitolo ancora aperto su quella Cosa Nostra di Totò Riina, un'organizzazione che, come già dicevamo, si sta già però riorganizzando alla ricerca di nuovi equilibri e di nuovi capi, e da qui ripartiamo nella seconda parte di Storiato. Ogni giorno milioni di tonnellate di merci viaggiano nel nostro paese. Ovunque, dai porti alle industrie, fino alle nostre case. Noi vi raccontiamo questo mondo in perenne movimento con uno sguardo rivolto all'intera filiera dei trasporti, via terra e via mare. Una mobilità avviata sulla strada dell'intermodalità e quindi del rispetto dell'ambiente. Su Radio 24, lunedì alle 13.45, hashtag Autotrasporti, con Andrea Ferro. Sabato alle 13.15, Container, con Massimo De Donato. Storiacce. Io non ho niente da pentire. Se avessi cose da pentire, me ne pentirei. Io sto isolato da tutti. A me mi fanno fare una vita da cane, ma anche i cani sono trattati come sono trattato io in caccia. Il pentito non l'ho fatto perché non ho niente da pentire. Parola è Kidda Canunzirici, la miglior parola è quella che non si dice. Lo sentenziava uno storico pentito di mafia come Antonino Calderone, lo sapeva bene colui che fino alla fine è rimasto il capo dei capi di Cosa Nostra e che come tale si è comportato. Totò Riina, per 24 anni al carcere duro, non si è mai pentito della più sanguinaria stagione di mafia, quella in cui ha dichiarato guerra allo Stato, commettendo però il suo più grave errore strategico, commenta ora il procuratore di Palermo, Francesco Lovoi. Con la sua morte porta con sé numerosi segreti, soprattutto sulle complicità esterne di quella stagione di bombe su cui ancora si indaga a Firenze, Caltanissetta e Palermo. Ma dentro Cosa Nostra già da tempo è in atto una riorganizzazione, si cercano nuovi equilibri e una nuova convocazione della cupola, l'organismo di vertice mai più riunito dopo il 15 gennaio 93, dopo cioè la cattura proprio di Riina. E gli scenari che si aprono sono due, tenendo conto anche della latitanza dell'ultimo padrino, il trapanese Matteo Messina Denaro, criticato però da Riina perché pensava solo a sé, diceva in conversazioni intercettate in carcere, non cioè ai detenuti. Di sicuro la fase che inizia ora è estremamente delicata, analizza Vittorio Teresi, procuratore aggiunto di Palermo. Questo evento né per noi né per Cosa Nostra è un evento imprevedibile o improvviso. Le condizioni di salute di Riina erano tali che era un evento atteso. Certo. Credo che, per quanto conosco l'organizzazione, avesse già in qualche modo cercato di pensare a una successione, no? A una strategia della successione, perché è vero è che Riina rappresentava il capo assoluto di Cosa Nostra, però è anche vero che ormai le sue condizioni facevano facilmente prevedere che di lì a breve sarebbe scomparso. Sono abbastanza certo che l'organizzazione su questa cosa ci ha ragionato e si è mossa per prendere le decisioni necessarie. O una gestione collegiale dei vertici o un tentativo di qualcuno di forzare la mano. Nell'un caso avremo una stagione di politica silente di Cosa Nostra, di sommersione come è stata quella inaugurata da Provenzano, o purtroppo uno scontro che non è mai da augurarsi. Questo sicuramente no, per mille ragioni, e l'ipotesi di una nuova, e diciamo la notizia di una nuova riunione di quella che era considerata la cupola, come non avveniva proprio, se non sbaglio, dalla cattura di Riina, va proprio nella direzione che lei diceva, cioè di una riorganizzazione già in atto da parte di Cosa Nostra. Cosa Nostra riesce ad anticipare le mosse al di là di quello che sono le nostre attività investigative? Certo che sicuramente si saranno consultati, ora non so se in una riunione plenaria o mediante consultazioni, mediante messaggi a distanza, ma sicuramente una consultazione c'è stata, poi vedremo in che termine. Ecco, procuratore, ma secondo lei questa morte di Riina può in qualche modo influire anche nel senso di accelerare la cattura di quello che comunque resta il principale in questo momento superlatitante, Messina Denaro? Ma non credo che abbia un'influenza diretta e immediata. Non riduce le coperture, diciamo? Non credo proprio, anzi. Anzi, potrebbe in qualche modo portare l'organizzazione a rinsaldarsi? Non solo quella, io mi vedo immaginare che la morte di Riina abbia fatto tirare un sospiro di sollievo a molti, dentro e fuori Cosa Nostra. E il suo riferimento ci porta a quello che è, diciamo, l'aspetto riguardante le verità che ancora mancano sull'accertamento di quella stagione che Totò Riina ha avviato, la stagione delle stragi, e su cui ci sono ancora indagini aperte. C'è il processo sulla trattativa Stato-mafia, ci sono le indagini a Firenze sulle stragi sul continente, e in qualche modo, diciamo così, si perde la possibilità di aggiungere tasselli rispetto a quella stagione con questa morte, anche se Riina non ha mai dato segnali di collaborazione. Appunto, quindi a noi non è venuta a mancare certamente una speranza di nuovi tasselli attraverso Riina, perché questa speranza non c'è mai stata, e le nostre indagini prescindono evidentemente dalla presenza fisica di questo, di quel mafioso. Le indagini vanno avanti comunque, evidentemente con altre modalità, con altre attività tecniche di tutti i tipi, per cercare di entrare e capire le logiche attuali dell'organizzazione. Logiche attuali dell'organizzazione che, ancora una volta, almeno vista dall'esterno, ci portano a pensare a quello che dovesse essere il rapporto in questo momento, la crescita del ruolo di Messina Denaro con Riina, diciamo, detenuto alla 41 bis. Ma io credo che Riina avesse la capacità, per il suo carisma e la sua gestione dittatoriale, di mettere a tacere i dissensi, che pur c'erano i sensi della sua gestione, sia quando era libero che quando era detenuto. Che Messina Denaro abbia la stessa capacità di tacitare i dissensi, ho tanti dubbi. E questo forse non dovrebbe, diciamo, favorire anche la possibilità che qualcuno anche lo tradisca? Questa del tradimento, della vendita delle persone libere che diventano troppo ingombranti per l'organizzazione, è un'arma che l'organizzazione ha sempre usato per la propria sopravvivenza. Quindi non mi stupirei che si verificasse ancora. Però noi in questo senso ancora non abbiamo segnali. Nella geografia delle famiglie palermitane, tre i nomi che più si impongono: Giuseppe Guttadauro, Gaetano Scotto e Giuseppe Grizzaffi, mentre resta tuttora latitante, come dicevamo, Messina Denaro. Totò Curtu muore con i suoi segreti, su cui però si continua ad indagare in fascicoli aperti a Palermo, Caltanissetta e Firenze, dove sono ancora una volta indagati Silvio Berlusconi e Marcello Dell'Utri, già in passato iscritti nel fascicolo sulle stragi del 93 e poi scagionati dopo le ultime intercettazioni in carcere del boss Giuseppe Graviano. Ed è chiaro che la morte del protagonista di quella stagione non ferma l'obbligo di cercare quelle verità, come ricorda la presidente della Commissione Antimafia, Rosi Bindi. Sicuramente è importante catturare Matteo Messina Denaro e mettere fine alla sua latitanza. Finché Riina è stato in vita, secondo le regole della mafia, era lui il capo. Io credo che, oltre che catturare Matteo Messina Denaro, sia necessario seguire molto il processo che inizierà dentro Cosa Nostra dopo la morte di Riina. Non sottovalutare affatto la fine pena di molti altri mafiosi che sono stati arrestati in questi anni, e anche il comportamento degli stessi figli di Rina e di tutta la sua famiglia e comunque di tutti i capi mafia. È un momento delicato, evidentemente. La relazione vostra segnala come, diciamo, che cosa sta succedendo all'interno degli equilibri, che cosa succedeva fino adesso all'interno degli equilibri di Cosa Nostra. Ecco, ma a questo punto, secondo lei, appunto, con la morte di Rina, ci potrebbe anche essere la possibilità per altri che sono stati già arrestati, una maggiore forse possibilità che possano parlare? I collaboratori di giustizia sono stati preziosissimi in questi anni, non solo per assicurare alla giustizia molte capi mafia, ma anche per capire il loro funzionamento. Che la morte di Rina possa rappresentare, come dire, una sorta di rompete le fila è un'ipotesi. L'altra ipotesi è invece anche essere quella contraria, cioè di una maggiore ricompattazione, proprio per la necessità di scegliere un nuovo capo in qualche modo. Quindi credo che sia troppo presto per avanzare ipotesi in questo senso. Io credo che subito dopo la morte di Rina, io credo sarà necessario da parte di tutti riflettere, per esempio, sulle tante verità che Rina ha portato con sé e che noi dobbiamo ancora portare alla luce, per tutto quello che è successo in questi anni, per quello che la mafia delle stragi ha rappresentato per la vita del nostro paese, per come ha inciso nella vita del nostro paese, per le responsabilità che ci sono state da parte non solo della mafia, ma di chi fuori dalla mafia ha in qualche modo usato, si è fatto usare dalla stessa. E per questo infatti ci sono ancora delle inchieste aperte a Caltanissetta, a Firenze, su quella stagione, diciamo, avviata proprio dalla mafia corleonese, su cui non si è fatta ancora del tutto chiarezza. La lunga latitanza di Matteo Messina Denaro, questa morte potrebbe forse accelerare una sua cattura, che è un obiettivo ormai che da anni molti magistrati perseguono? È quello che auspichiamo, anche perché così finisce non solo un latitante, ma anche perché forse si mette fine, come sempre capita, anche alla leggenda di Matteo Messina Denaro, perché assicurarlo alla giustizia, mettere fine alla latitanza, vorrà dire anche capire che cosa è accaduto in questi anni realmente. Magari potrebbe anche essere un risultato dopo la morte di Totò Riina. Con la morte di Riina di sicuro non si chiudono le indagini su quella stagione di mafia, né tantomeno la lotta alla mafia, oggi dal volto assai diverso rispetto all'epoca. E Storiacce continuerà a raccontarla come fa ormai da più di 10 anni. Per riascoltare questa, come tutte le altre puntate di Storiacce, il sito è radio24.it. Scriveteci sulla pagina Facebook di Storiacce oppure su Twitter, ci trovate all'account Raf Calandra. Grazie in regia Filippo Aureggi, un saluto a tutti voi da Raffaella Calandra.